just pray together. Saremo in un sotto che va a fuoco ramboile. Saremo in un motivo una pure meluago. Wabaga di caraba wata che rida ramboile. Begit nabuna pure melume me basigri abini rawa. Caraba wata che wadairo guongo na pure me. Frumeti na pure melago. Begit na lubishu ere ho. Caraba hada nibiri guna pure. Na pure me buga subito il bali. Soon, again, the one soon. Luieri, uribani leggi ego ben abureme, però uoti ni kata gawara tili abi dalle abuhi la uora wama abureme. Sereme in uoti buluago lera, adugarega moti abureme. Ibe la kate ghiego, però abuhi la wama isu anda abureme. Sereme in uoti buluago lera. I frume abureme che tu abuha wau sun ha duhe ni wabiri guhayama ya lida ramboi le abureme luago badauro u lenihu ha moti abureme. Lagu ha famiglia na pure mele yu lo moti bo lo me frumeti balisi na pure me begi tu abu lo abu agere lina na pure me sere me abe wea so lagu gude me ne habu lo abu flasu bo lina na pure me lo abu adima lo abu ondule na pure me la diga bugude me ne habu ligia awahe guwa lube nihi guwa lube flasu le rara na pure me ligia di matengi regla etu abu na pure me lo abu le adiga bali be na pure me sere me abe ya wea so na pure me Lago barufu tne muha buluagu agere bilira na bureme. Sereme wa muti buna bureme. Ida luba watengiru ni muna bureme. Ida luba watengiru ni buluagu leba dhigu bing na bureme. La dhiga buma yesu ere, buma yesu bafu yi bugiere gie gihala. Badhigu gie gihala bagi, baresi ha na bureme badhigu leba musheru na bureme. Sereme ino muti bu luagu bini flasu lira na bureme. Sereme ino muti bu luagu bini nechani. Lina na bureme la diga buho bu ahigi so bu bei lina na bureme bei na bu meme na bureme lu meme badauro unia wa duhe yo na bureme lagu bita yali ta na bureme I na bureme hage masubu diru hamagi di bu na bureme aba ana bagale lina na bureme lu hariri bu agu na bureme lu hadiro bu gariro bu ha bu agu na bureme lu hadiro bu ariro bu arenga na bureme bugio whatsapp na gulebe uwati amu bu ei na bureme uwati amu bu ei bugio regeye na bureme gawana la Badugu kati ni na wadai na wongo. Na bureme sereme ino muti mbibili wangu. Plaso lina na bureme sereme ino muti buha wangu. Karaba hada ngevecha ni na bureme. Sereme ino muti buha wangu. Karaba plaso lina na bureme. Iwati amu luna rengu buna bureme. Luwege sereme ino bureme. Luwege sereme ino wangu le. Badugu beilida wadai na wongo na bureme. Sereme ino muti buha bureme wangu. Karaba hada ngevecha ni na bureme. Hawagu kara haduwe nyo kara ama flasu mini lei na mureme lei diha bengarino wa na mureme lubabiri rune ya na mureme sereme ino motibu lida ramboe lei na mureme lida lidi wa mureme Jesu Christu ita thank you okay. Amen.